Quattordicesima stazione. Gesù è deposto nel sepolcro. Ti adoriamo, Cristo, e ti benediciamo. Perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Dal Vangelo secondo Matteo. Giuseppe, preso il corpo di Gesù, lo avvolse in un candido lenzuolo e lo depose nella sua tomba nuova, che si era fatta scavare nella roccia. Rotolata poi una gran pietra sulla porta del sepolcro, se ne andò. Erano lì davanti al sepolcro Maria di Magdala e l'altra Maria. Signore, il buon Giuseppe d'Arimatea ha proprio pensato a tutto, perché ha portato anche la sindone, il lenzuolo in cui avvolgere il tuo corpo. Il suo sepolcro non è molto distante dal Golgota, ma la processione che l'accompagna è fatta di poche persone. O Gesù, sei nato povero e subito perseguitato. Muori povero e subito abbandonato. Perdonaci. Ecco, sei nella tomba, e anche se è nuova, certamente non si addice a te, nostro Re e Salvatore. Le donne fedeli piangono, non vogliono lasciare il loro Maestro. Signore, guardandoti nel sepolcro, fa che il nostro cuore versi lacrime di pentimento. Illuminaci con la tua grazia e convertici. Vogliamo prometterti che mai più starai sepolto nella tomba della nostra vita, dove ti abbiamo posto, preferendoti a tanti idoli falsi. Gesù, sradica dal nostro cuore l'egoismo, l'orgoglio, la voglia di primeggiare. Infondi in noi l'umiltà, la pazienza, l'amore. Da oggi vogliamo metterti al primo posto nei nostri cuori, darti il posto che hai pagato per noi con la vita. Madre Santissima, il tuo cuore è straziato dal dolore, i tuoi occhi non hanno più lacrime. Il tuo Gesù è lì, su quella fredda pietra. Il tuo tutto giace nel sepolcro. Il mondo senza di lui sembra vuoto. Cara madre, tante volte ci hai chiamati a meditare sulla passione e sulle piaghe del tuo figlio. Oggi, davanti a questa stazione, abbiamo capito che la Via Crucis fa nascere in noi un amore particolare per Gesù, uno struggente desiderio di lenire le sue sofferenze, conformando la nostra vita al Vangelo. Madre, aiutaci con il tuo amore materno a pellegrinare sulla terra, tenendo gli occhi fissi soltanto su Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Di dolori, quale abisso! Presso, o madre, al crocifisso, voglio piangere con te.